Sì. Buonasera a tutti. Allora, io sono Dario e gestisco insieme a mia moglie, che ha nell'angolo un'azienda zootecnica da latte qui vicino al comune di Albairate. E devo dire che intervenire dopo la poesia di Gabriele e l'intervento altrettanto poetico di Nicolò è abbastanza difficile. Allora, pensavo di iniziare con un applauso, non per me assolutamente, ma per gli organizzatori di questa serata, per i ragazzi del Folletto, perché mi sembra che abbiano avuto veramente una grande idea, e una grande idea soprattutto di fronte a dei problemi, a delle responsabilità, se volete, anche, che abbiamo in questo momento. Ero un po' indeciso su che cosa dire stasera, cioè, nel senso che Paolo mi ha sollecitato a dire: anima un po' il dibattito sul prezzo sorgente piuttosto che sui marchi comunali, eccetera. Ecco, io, se me lo permettete, non vorrei intervenire su queste cose. Le vedo magari un pochino più da seminario, anche se ci sono delle differenze. Sarebbe interessante, perché la CIA ha detto delle cose sul prezzo sorgente, loro ne hanno dette le altre, però credo che in questo momento valga più la pena soffermarsi su due o tre altre piccole questioni che forse non tutti hanno ben presente davanti. C'è un'affermazione, sempre di un altro americano, devo dire che gli americani di stupidaggini riescono a farne parecchie, ma dicono anche qualche cosa giusta. Quest'altra affermazione dice che no farmers, no future, cioè senza gli agricoltori non abbiamo un futuro. E questa affermazione però va di pari passo con un fatto peraltro già citato prima da Pino Tripodi, che gli agricoltori stanno diminuendo drasticamente in tutte le parti del mondo. Non c'è zona del mondo dove la ruralità sia in crescita, cioè il processo migratorio verso le città che citava prima Pino è diffusissimo. E quello che forse voi non sapete è che è particolarmente drammatico anche qui nella nostra realtà locale. Negli ultimi 10 anni è scomparso in provincia di Milano il 18% della superficie agraria, cioè dal 90 al 2000. È una cifra assolutamente impressionante, e non so quanti di voi si sono resi conto fisicamente di questa cosa. In compenso sono sparite, pensate, il 43% delle aziende in 10 anni, cioè ci sono 43 agricoltori in meno su 100 di quanti ce ne fossero stati 10 anni fa. Questo è un fatto veramente impressionante. Pensate che siamo un po' nella parte fortunata del mondo, cioè gli agricoltori di questa zona del mondo, ed è oggetto del dibattito, delle riflessioni che sono state portate prima, si stanno ponendo il problema della qualità del cibo da offrire a chi consuma, no? Quindi, se volete, un problema alto. Pensate che in tantissime parti del mondo c'è addirittura il problema di una quantità minima di cibo da fornire, cioè c'è il problema della sopravvivenza alimentare. In altre parti del mondo c'è un problema leggermente superiore, cioè siamo a livello della sopravvivenza alimentare, ci poniamo il problema della salubrità dell'alimento, cioè del fatto che gli alimenti che mangiamo siano un minimo che non facciano male, nell'acqua, nel vino, nel pane, nel formaggio, né queste cose qua. Qui siamo in quella grande parte del mondo fortunatissima, cioè dove non abbiamo il problema del minimo alimentare, abbiamo affrontato con una certa serietà il problema della sicurezza alimentare, anche se in questo percorso ci abbiamo lasciato parecchie penne, dalla diossina negli alimenti, dalla mucca pazza, dal vino al metanolo, però abbiamo lasciato cadaveri veri e cadaveri politici, però siamo andati oltre. Oggi ci poniamo il problema di che tipo di prodotto dare, no? Di come legarlo a una storia, di come legarlo a una tradizione, di come legarlo a un territorio, di che tipo di problematiche porci tra chi compra e chi produce. Cioè, voi pensate a dove siamo, in quanta parte del mondo avessero questi problemi, ma molto meno di questi, si sentirebbero enormemente fortunati. Ecco, io volevo solo fare questa flash, proprio questa riflessione, cioè io sono contentissimo che questa sera si discuta di queste cose, sempre tenendo presente che sarebbe bello che di queste cose potessero discutere in ben altre parti del mondo. Vi ringrazio della presenza, scusatemi per la brevità. non ce